L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti. Sono molto contenta davvero in questa puntata di tornare a parlare di acqua, un tema che mi è molto caro. E lo facciamo grazie ai risultati di un progetto che si chiama per l'appunto Terra e Acqua, che sono stati presentati in settimana a Firenze. Un progetto dedicato alla sostenibilità idrica di 3 aziende della filiera vitivinicola e olearia toscane. Il progetto è nato su iniziativa di Water Right Foundation ed è stato realizzato da Cerafri, Centro per la ricerca e l'alta formazione per la prevenzione del rischio idrogeologico, una società partecipata dall'Università degli Studi di Firenze. E infatti a condurlo sono stati giovani ricercatori della Scuola di Agraria e della Scuola di Ingegneria dell'Università. In collegamento con noi c'è Mauro Perini, che è presidente di Water Right Foundation. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, molto piacere. Allora, diciamo innanzitutto, Perini, che cosa fa Water Right Foundation? Sì, noi siamo una fondazione, ONLUS, cosiddetta fondazione di partecipazione. L'intento nostro è quello di mettere insieme le conoscenze, i rapporti e i progetti del sistema degli enti locali, delle università e delle imprese che hanno a che fare col tema dell'acqua. E recentemente abbiamo aggiunto anche il tema dell'energia, il tema del cibo e il tema della salute. La fondazione nasce nel 2005 circa, 2006, per opera dell'azienda Publiacqua, che all'epoca aveva rilevato la concessione dei vari acquedotti dei comuni dell'area Firenze-Prato Pistoia, con una missione specifica: accantonare dalla gestione di questi acquedotti un centesimo di euro per ogni metro cubo, al fine di destinare queste risorse che si sarebbero venute a creare per garantire l'accesso all'acqua ai paesi in via di sviluppo, ai paesi dove questo bene e questo tipo di servizio non era garantito o era insalubre, eccetera. Pertanto la Fondazione ha sviluppato in questi 10 anni molte decine di progetti, prevalentemente in Africa, ma anche America Latina, Asia e altre regioni, sia in ambito urbano che forse soprattutto in ambito rurale, dove c'erano situazioni più critiche, arrivando alla fine a garantire l'accesso all'acqua a numerose centinaia di migliaia di persone. E questo è un fatto per noi estremamente significativo. Certo, di orgoglio anche, immagino, insomma, di soddisfazione, mettiamoci tutto, insomma, abbiamo un'azione locale sì. Poi dopo ha un effetto globale, no? Esatto, un'azione che nasce dal territorio, che nasce mettendo insieme le volontà e i progetti anche molte volte di soggetti molto piccoli, che possono essere l'associazione, la ONG, la parrocchia, il gruppo, diciamo, di studenti, e che va direttamente in contatto con l'interlocutore nel paese di destinazione, arrivando a fare interventi molte volte anche elementari. Non parliamo di grandi dighe e grandi strutture, non ci compete a noi, però parliamo di interventi che cambiano la vita alle persone, e questo ci ha reso sicuramente un soggetto accreditato nei confronti di tanti paesi, di tanti contesti, ecco. Dunque, però poi siete entrati anche nel locale, non più fuori dai confini italiani, ma avete cominciato a lavorare anche in ambito più regionale, non so se poi nazionale anche. Più recentemente abbiamo ampliato un po' il nostro menù, ecco, come dire. La cooperazione internazionale resta uno degli ambiti prioritari. Accanto a questo abbiamo cominciato a lavorare sulle aree di interazione tra l'acqua e altri temi e altri problemi, per cui, come dicevo all'inizio, il nesso tra acqua e energia, il nesso tra l'acqua e la terra, e l'acqua e il suolo, il nesso tra l'acqua e la salute, e avendo un atteggiamento molto diverso nei confronti anche di problematiche che possono riguardare il nostro, appunto, di territorio. Pertanto siamo adesso impegnati in alcuni progetti sia di natura educativa e culturale, sia di sensibilizzazione ambientale, e anche su questo tema che affrontiamo con la collaborazione anche dell'Università di Firenze e di altri soggetti, rispetto a quale come si può dire, a quale criterio, a quale concetto potrà ispirarsi un'agricoltura ed un'economia del territorio rurale all'altezza delle sfide che abbiamo davanti. E pertanto abbiamo coniato un po' questa espressione terra e acqua, anche volutamente per enfatizzare il carico simbolico di queste due parole, che sono due parole usatissime, abusatissime, scontatissime, ma che in realtà nascondono all'interno la forza della vita, ecco, la forza dell'energia che esse racchiudono. E quindi il progetto Terre Acqua che si è sviluppato negli ultimi quanti mesi, anni, quanto tempo, perché voi avete presentato adesso i risultati, su che periodo di lavoro? Ma diciamo un anno. L'idea è un po' più datata, ma il lavoro più sistematico e più preciso è dell'ultimo anno. La sollecitazione mi è venuta partecipando ad un appuntamento in Brasile, dove veniva messo in evidenza, siamo nella zona che ospita una delle dighe più grandi del mondo e chiaramente lì avevano il problema di garantire che a monte della diga ci fosse un'agricoltura la più attenta e la più accurata possibile, soprattutto per evitare che andassero detriti, che andassero rifiuti, che andassero diciamo nel bacino della diga, elementi che potrebbero entrare in contrasto con la funzione primaria di questo enorme bacino del rio Paraná. Però mi ha colpito molto il livello di dettaglio e il livello di coinvolgimento sociale e territoriale rispetto al concetto del micro bacino idrografico come elemento come si può dire, come elemento basico della pianificazione, della programmazione, che è una pianificazione che viene operata dalla natura e non dall'uomo. Per cui recuperare questo rapporto con la dimensione del micro bacino mi ha aperto un mondo, perché in realtà così era anche da noi nei nostri tempi passati. Se pensiamo alla cura del reticolo idrografico delle nostre campagne, delle nostre terre, troviamo tracce di come l'uomo si occupava di queste cose nei secoli passati. Ecco l'idea di terra e acqua, che dovrebbe, tra le altre cose, favorire anche dei contratti di vallata o dei contratti di bacino idrico, per cercare di mettere insieme le forze pubbliche e private per recuperare una maggiore efficienza nelle attività che lì si svolgeranno, e questa idea di dare una sorta di certificazione del prodotto finale. Cioè, a me piacerebbe che un consumatore ipotetico domani trova sullo scaffale del luogo dove va a approvvigionarsi per la sua spesa quotidiana o settimanale anche dei prodotti con una enfatizzazione del fatto che sono stati portati a compimento durante la fase sia di raccolta che di trasformazione con una attenzione speciale al bene acqua, ecco, una sorta di goccia che possa in qualche maniera dare valore aggiunto a quel prodotto, perché dice al consumatore: comprando questi fagioli o comprando quest'olio o comprando queste nocciole, sai che hanno un'impronta idrica più adeguata e sai che il territorio che ospita queste coltivazioni è un territorio che ha preso a cura il rapporto tra la terra e l'acqua, e questo potrebbe diventare una sorta di marchio di qualità. Certo. Questa è un po' la suggestione che ha mosso il progetto. Allora, io quindi, però adesso lei ha dato tanti elementi, quindi adesso dobbiamo stringere su che cosa avete fatto, no? Alla fine, come si è concretizzato questo progetto? Cioè, io so che avete scelto 3 aziende che si sono prestate, diciamo, a studiare la loro impronta idrica, no? L'idea è quella che abbiamo appunto descritto. Da dove si parte? Si parte da quello che abbiamo a disposizione e si parte dalle caratteristiche più emblematiche del territorio, e la Toscana, il vino e l'olio sono due prodotti di traino, sono due prodotti di punta, sono due prodotti conosciuti. Abbiamo, insieme all'Università di Firenze, studiato l'impronta idrica di alcune aziende, convinti del fatto che avere la possibilità di misurare un fenomeno e di averlo come punto di riferimento costante è una base di partenza per dare serietà e per dare dignità, diciamo, di carattere scientifico all'esperimento. L'idea adesso è quella di coinvolgere altri soggetti nel campo della pianificazione pubblica e nel campo anche, diciamo, delle attività economiche, per portare sulla base di questi risultati, che hanno a che fare con intanto la misurazione dell'impronta idrica di queste aziende, portare l'idea a un punto di avanzamento per poter diventare un volano per coinvolgere anche altre aziende e coinvolgere anche il mondo della distribuzione e quindi anche il mondo dei consumatori, che secondo me dovrà essere la leva fondamentale. Ecco, c'è la consapevolezza che da parte del consumatore che avere privilegiare prodotti a più basso impatto ambientale sta diventando un must sempre più riconosciuto e sempre più acquisito, specialmente dai giovani. Ecco. Sicuramente c'è molto interesse, diciamo. Certo, poi dopo c'è anche da imparare a destreggiarsi con i tanti marchi che vediamo, qualcuno più serio, qualcuno forse meno serio, quindi bisogna imparare anche questo, no? Quindi ci sarà anche una parte, immagino, di formazione e diffusione del messaggio che voi dovrete prevedere, diciamo, in futuro. Certamente sì, devo anche dire che questa parte mi preoccupa un po' perché non è il nostro pane quotidiano, un po' perché effettivamente, come ha messo in evidenza lei, ci stiamo dibattendo in una selva di marchi, certificazioni e accreditamenti di qualità in cui destreggiarsi effettivamente non è facile. Noi ci siamo mossi col sostegno dell'università e speriamo quanto prima anche della Regione Toscana e degli enti, diciamo, istituzionali di riferimento per poter avere una cornice di credibilità e di qualità. Buon lavoro. Molte grazie a voi, buon lavoro. Allora, grazie a Mauro Perini, presidente di Water Right Foundation. Facciamo una pausa, proseguiamo tra poco però con i ricercatori a questo punto. Deborah, ci sei? Sì, ma ho un dolorino un po' qua dietro al collo. Perfetto, Cadio Fagiolo Tempismo, magnifico perché a febbraio, cuore denari, è il mese delle articolazioni. Il professor Carlo Selmi, che è responsabile di reumatologia e immunologia clinica a Humanitas, ma anche docente all'Università degli Studi di Milano, ti rimetterà sicuramente a posto e soprattutto ci farà capire se ti lamenti di gamba buona. Mi sento già meglio, però mi è rimasto un po' di bruciorino di stomaco. Ma Deborah, dai, ce l'hai tutte tu. Dai, ascolta Cuore Denari, ogni mese un consiglio per investire in salute. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo parlando in questa puntata di Terra e Acqua, un progetto pilota nato su iniziativa di Water Right Foundation per promuovere l'importanza della sostenibilità idrica nelle filiere vitivinicole e olearie. Prima abbiamo detto dei principi ispiratori di questo progetto, ora andiamo nel dettaglio con i ricercatori di Cerafri, che sono due dottorandi dell'Università di Firenze, ma in due rami diversi. Tommaso Pacetti, dottorando della Facoltà di Ingegneria Ambientale, appunto, dell'Università di Firenze, benvenuto. Sì, grazie. E Giulio Castelli, dottorando invece presso la Scuola di Agraria dell'Università di Firenze, benvenuto anche a lei. Grazie mille. Allora, Tommaso Pacetti, cominciamo col dire cosa fa Cerafri, che è poi dopo il braccio operativo di questo progetto al quale avete poi lavorato voi. Cosa fa? Sì, il Cerafri è un centro di ricerca partecipato all'Università di Firenze, che è nato nel 2002 con l'obiettivo di prevenire il rischio idrogeologico e poi durante gli anni ha esteso la sua attività nella valutazione della gestione delle risorse idriche. Dunque, noi abbiamo sentito nella prima parte appunto del programma illustrare per linee generali qual è stato il progetto Terra e Acqua, che voleva appunto promuovere l'importanza della sostenibilità idrica nelle filiere vitivinicole e olearie. Voi come l'avete sviluppato questo progetto? Magari Giulio? Grazie. Allora, diciamo, questo progetto è nato in collaborazione con Water Right Foundation e con un altro ente, diciamo, di ricerca proprio nella qualità dei prodotti enogastronomici toscani, che si chiama Qualita. Di fatto, diciamo, noi abbiamo seguito tre aziende toscane che si sono dette interessate diciamo, a fare questa valutazione dell'impronta idrica e quindi della sostenibilità della loro produzione dal punto di vista idrico, e abbiamo avviato con loro un percorso di lavoro e di ricerca, perché fondamentalmente noi abbiamo, diciamo, approcciato le aziende andando a prendere dei dati generali con dei questionari, in maniera tale da avere una fotografia di quella che era la situazione dell'azienda insieme, diciamo, all'estensione, al tipo di produzione. Sulla base dei questionari siamo andati a tarare per ciascuna delle aziende vitivinicole, per l'azienda olearia, che ovviamente era leggermente diversa nei tipi, nelle tipologie di macchinari e di lavorazioni del terreno, siamo andati a tarare quella che poi è stata la procedura di analisi che è stata effettuata andando a riprendere poi le bollette della luce, le bollette dell'utilizzo idrico, e attraverso questo studio, la consultazione dei registri dei trattamenti per vedere quali erano poi gli impatti dei trattamenti chimici e fitosanitari sulla risorsa idrica, siamo andati a fare a realizzare un modello di calcolo, e attraverso il modello di calcolo abbiamo simulato tutti i processi dell'azienda. Attraverso questa simulazione dei processi, per ogni processo siamo andati a valutare il consumo d'acqua, ovviamente con i dati di ingresso, che erano poi di fatto l'acqua utilizzata, il consumo di diesel e anche il consumo di energia elettrica. Faccio un passo indietro e vi chiedo, in base a che cosa avete scelto queste tre aziende? Cioè, sono loro, sono rese disponibili, le avete scelte per una loro, che so, posizione geografica, altitudine, non so? Allora, siamo andati praticamente con tutti e tre i criteri, cercando di andarne a definire tre. In particolare, diciamo, sono aziende che comunque, diciamo, di una rosa sono, c'è stata una rosa di aziende che si sono rese disponibili. Dopodiché siamo andati a scegliere tre diverse zone geografiche, perché anche le due aziende vitivinicole sono tutte e due vicino a Firenze, ma sono in due consorsi differenti, quindi due zone geografiche differenti. E diciamo, una cosa molto importante, siamo andati a scegliere tre aziende biologiche e tre aziende che comunque avevano già un'attenzione a, diciamo, questo tipo di sensibilità sulla certificazione della produzione con una footprint. Perché reputa particolarmente importante che siano biologiche? Perché, ecco, questa era una cosa anche interessante dal punto di vista della ricerca. Sul biologico bisogna, diciamo, c'è un po' di dibattito. E come no, certo. Noi non siamo partiti prevenuti, ecco. Però, diciamo, volevamo andare a vedere se effettivamente, almeno dal punto di vista della risorsa idrica, le aziende biologiche inquinavano più o meno delle aziende, diciamo, tradizionali. E di fatto la cosa interessante è che a parte che l'azienda biologica comunque ha un'attenzione inizialmente più particolare, quindi dà anche al ricercatore una mano, però a livello di valutazione di impronta idrica ancora si sa pochissimo, cioè c'è un gran parlare, però poi di valutazioni vere e proprie ne è state fatte un numero limitato, quindi c'era il triplice interesse di andare a coinvolgere i soggetti già interessati, di andare a fare una valutazione scientifica, ma anche di diffondere un certo tipo di metodologia scientifica a questo tipo di approccio, diciamo, alla produzione biologica o no. Ok, allora tra poco poi dovrete dirmi a che conclusioni siete giunti dopo questo primo anno di lavoro, immagino ce ne saranno poi dopo altri di studi da compiere, però mi piacerebbe sapere da Tommaso Pacetti che cosa ha fatto un ingegnere ambientale in questo progetto, che parte ha seguito? Diciamo che tutte le parti sono state seguite dal gruppo di lavoro. Comunque, l'ingegnere ambientale, almeno diamo anche un ruolo a questa figura che solitamente è misteriosa, ha come competenza principale quella dell'implementazione del modello di calcolo. Il nostro calcolo si basa su una metodologia che ormai è stata sviluppata in ambito industriale, che si chiama Life Cycle Assessment. La Water Footprint è una parte di questo tipo di calcolo. Quindi il lavoro che lo traduco, la Water Footprint è l'impronta idrica, giusto perché qualcuno magari non l'ha chiarissimo, no? E quindi attraverso l'analisi che ha già introdotto Giulio andiamo a valutare quelli che sono gli impatti in termini di utilizzo della risorsa e di inquinamento della risorsa di tutta una filiera produttiva. Sì, sono Giulio, intervengo anch'io perché sì. Anch'io in realtà sono laureato in ingegneria ambientale. Vabbè, troppe cose, dai. Il ruolo dell'ingegnere è un po' quello, più che di certificatore, di gestore del processo. Cioè è comunque una metodologia che diciamo ha bisogno di una persona che sappia andare a vedere quali sono i processi coinvolti ordinandoli in una modellazione. Nel prendere in esame queste tre aziende siete riusciti a costruire quindi un modello? Chiaramente sì, e chiaramente ogni azienda è fondamentalmente storia a sé, però in questo caso, nel nostro progetto, le tre aziende scelte appunto anche per sensibilità e disponibilità di dati ci hanno permesso di arrivare a concludere una valutazione il più completa possibile dell'impronta idrica, che non considera soltanto i quantitativi di acqua utilizzata nella filiera produttiva, ma va anche a valutare ulteriori parametri di qualità degli ecosistemi e quindi di impatti sull'ambiente, in modo da avere un quadro il più esaustivo possibile di quella che è la qualità in termini ambientali della produzione delle aziende. Quali altre conclusioni possiamo così presentare agli ascoltatori tra quelle meno tecniche, diciamo, quelle più che possiamo cogliere, diciamo, noi che non siamo addetti ai lavori? Ok, fondamentalmente la prima è che per produrre un litro di vino servono almeno 2 litri di acqua, considerando tutta la filiera produttiva dell'azienda che abbiamo considerato, ed escludendo la cosiddetta acqua verde, che è l'acqua che è immagazzinata nel suolo come umidità. Quindi, andando a valutare l'impronta idrica in termini di acqua prelevata da fonti come possono essere fiumi, laghi o acquiferi, il consumo è di 2 litri per litro di vino, mentre per la produzione olearia il consumo è di un ordine di grandezza più alto e siamo a 20 litri di acqua per litro di olio. Questo a sottolineare l'impatto di queste filiere produttive sul consumo della risorsa idrica e l'importanza appunto di quantificare e rendere chiaro questo aspetto per aziende dell'agroalimentare. È tanto o poco? Possiamo ridurre questa impronta oppure è così e non ci si fa niente e va bene così? Allora, la risposta è sì, cioè sì, è possibile ridurla, però diciamo questa è una valutazione che deve fare l'azienda, perché in generale l'impronta idrica è un valore, come posso dire, che serve all'azienda per capire quali sono le principali fonti di spreco e invece le principali fonti di, diciamo, valorizzazione. Si può migliorare appunto l'impronta idrica sulla base di quello che poi è il report che viene fatto, perché un analista o un ingegnere che fa questo tipo di analisi dà all'azienda un report per, diciamo, per valutare dove si può intervenire. La risposta è anche no, perché diciamo sono analisi come, diciamo, magari si ha un po' seguito magari l'impronta idrica nelle sue prime uscite pubbliche, sono valori che comunque servono anche al consumatore per capire effettivamente quant'è lo spreco idrico collegato magari a uno spreco di cibo o uno spreco di olio, in questo caso mi viene in mente. In conclusione vi chiedo che cosa pensate di portare avanti da questo progetto che si conclude, che è stato appunto i cui risultati avete presentato questa settimana. L'idea è che come risultato principale del processo si veicoli una certa sensibilità rispetto al consumo dell'acqua. L'idea è che ci sia un seguito al progetto, estendendo le aziende che adesso sono 3 ma che dovrebbero essere molte di più, in modo da mettere a sistema i risultati iniziali del nostro progetto e far sì che si possa arrivare anche a livello regionale a politiche di gestione che su questa analisi di impronta idrica basino i loro piani di sviluppo. Benissimo, grazie molte. Ricordo Giulio Castelli e Tommaso Pacetti, entrambi dottorandi presso l'Università di Firenze. Ciascuno ha il suo ramo di specializzazione, ma si intersecano, come abbiamo sentito, queste specializzazioni. Buon lavoro e a risentirci quando, appunto, ci saranno novità, molto volentieri. Grazie. Speriamo a presto. Grazie, arrivederci. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto.